Buonasera Marco, buonasera. Buonasera a lei. Ma sai chi sono a me, non l'hai conosciuto? Sei Cristian, 4940 a Zeno, che cosa devi vendere? Sono vicino a casa tua, si può dire, guarda. Dove sei, Cri? Capo, 0940 sei. A Santa Maria sono. Capa. Allora in questo passaggio sei arrivato anche oltre. Capa, sei un bel forte, sì. Ma voglio essere chi ci vuole pescare? Ah, ti nandi dai nonchi. Ma cosa vuoi? C'è anche una piccolina pure. Un bel forte, sì. Un bel forte, sì. Adesso, cioè, in questo ultimo passaggio anche, stai toccando a picchi di 50, stai toccando. Ho cambiato l'antenna, ci vuole l'automa. Capa, vabbè, ma se mi passi sotto casa ti ha un grido, ya. Ma come sei in quella zona? C'è un bel forte qua, ti sto dicendo. È l'antenna che l'ho fatto, Ehi, Natali, tu già lo passi, già. Tu sei oltre 9,50. Sei passata lì, no? Non va bene, sto qui, cazzo, guarda, ma non va bene. Capa. Ehi, Natali, tu sei un bel forte, sì. Un bel forte. Già non credo, già. C'è un obiettivo di Gaza e non lo passi. Ciao, Cri. Miei, volevo vedere se ci passavo. Va bene, prendetela che io qua non è che posso parlare. Capo, io vado a mangiare adesso, che è già pronto. Ci sentiamo. Ciao, ok, caratteristica. Ma questo era oggi? Allora, io ho tutta le ore sono di Dio. Mangia questa ora sì, perché poi mi vediamo un po'. Ti fai qualcosa, poi mi ti cocco. Ma io sono dietro, non mangio più ormai. Cosa hai combinato? Io, perché? Dì che sia dieta, mi hai detto. Vabbè, anche io ho una dieta, ho 20 kg in più di peso da togliere. Hai fatto bene, hai fatto. Allora, quando ci vedi più bene. Vai tranquillo, vai tranquillo. Sono casino, non vedo niente, porca io sono miseria. Ehi, allai, dai che io vado a preparare a mangiare, cioè, è quasi gusto. Ci sentiamo, vai, scendo giù a mangiare. Ciao, ciao. Siamo con la batteria, alle prossime. Ciao, Natalia, alle prossime. Ciao, ciao. Ola, ola, ola. Prova, 1, 2, 3, 4, 5, prova, canale 10, 5, 5, canale 10. C'è qualcuno qua su 10? Attento 10? Chi sei? Sì, ciao Mirko, ben sentito. Non è messa l'antenna? Come va? Ma non so se almeno c'è qualche rottamatore, quelli che tirano il ferro, ritirano il ferro. Qua a Sassari c'è Marcello, ci sono i pali di tutte le misure, zingati, e te li fai, sono belli pieni, robusti, sono dei pali, normalmente li usano per tubazione di acqua, di tutte le misure. Si fa un foro o due, a seconda della misura del palo, si mette un mulone, un dado, soldato, e c'è dei pali telesufici eccellenti. Sempre con la stessa radio stai uscendo. Ciao a tutti. Ciao. Andiamo in FM a vedere se ti sento meglio. Ho la cavata però in banda laterale, che ti sentivo molto chiaro. Andiamo USB in banda laterale, così? Aspetta un attimino. Vabbè, quasi come combinendo, no? Che... Si chiude la porta e apre la finestra. Io, c'è nessuno? Davvero? Ah, io che sei in banda, metti AM. Non si comprende nulla, babarruttu, non si comprende nulla. E tu chi sei? Non si capisce niente, sei in banda laterale. Alberto, sì, in banda laterale. Sì, prova a centrarmi, guarda, 1, 2, 3, prova. Prova la cipolla, 1, 2, 3, prova, cambio. Sì, sicuri. Sicuri. Antonio, sei tu? Pronto. Stai uscendo, sei in banda, Antonio, ti ascolto malissimo, aspetta che cambio il radio, dai. Come qua. Cazzo, se ti metti bene magari ti ascolto. Eri in banda, Antonio. Ah, ben avremmo andato. Ti sento male, mettiti in AM. No, io faccio in AM adesso. Ora. Adesso sei in AM, Antu, ciao, buonasera. Laterale sono. Ora. Sughe. E cos'è sta cosa? Antonio. Cazzo. Cos'è successo a tu? Che è tu? C'è qualcosa che non va. Se voi parlate quello che tu sta parlando, non è che vi capisca. Ora, ecco qua. Scusate, ma devo fare un'operazione. Ah, ve la fai mandare in AM? Sì. Chi c'è in AM adesso? Persone qua, canale 10. Eia, eccomi qua. Hola. Tanto ero mezz'ora che ti chiamavo, ma non mi sentivi? No, mi ricordo care Lugoso Battararro. Ma ne se sei eravate? USB. Devi uscire con WhatsApp o te ne vai in USB? Che era in banda, avanti, buonasera. Sì, no, tu sei? Sì, ciao. Ero io e cose, Mirko D'Alghero, e poi un amico che non ho capito da dove stavamo durando, aveva 7, però non riuscivo a capire il nominativo. Ciao, no, io ero in un'altra stazione, diciamo, fuori, e ero mezz'ora dicendo, sei in banda, solo che magari non mi sentiva. Noi eravamo in banda, allora eri, no, non eri tu, troppo basso era, 7, tu sei 9:20 qua. No, va bene, adesso ho cambiato il radio, adesso ho cambiato postazione, magari ero io dall'altra parte. Ma ok, non eri tu, però che eri 7 così basso, mi pare strano. Comunque c'è anche Mirko, vediamo Mirko, avanti di nuovo a te. No, anch'io ti ascolto Santiago 9 e Radio 5, ma eri un po' bassina, non è fortissima come questi qua vicini, però ti ascolto bene. Sei in compagnia mia, adesso è entrato Tino, vediamo se ti ascolta. Tino, l'ascolti a Mirko. Guarda, ciao Mirko, ti ascolto basso, non riesco sinceramente a capirti a causa del QRM, quindi ritieniti assolutato, non so neanche se mi ascolti tu a me. Ti ascolta bene comunque Tino, adesso ti ascolta benissimo. Vediamo Antonio, sono ascolti, avanti Antonio. Certo, ve l'ascolto, buonasera Mirko. Caffa, già ti ascolto io, non ti ascolto con un grande segnale, ma già ti ascolto lo stesso. Adesso ci sono le antenne, Mirko, vediamo un po' che così si fa ascoltare bene da tutti, dai. Perché quelli, ci sono quelli giù di Lipunti e di Coso che hanno delle difficoltà. Qua a stessa rialta riusciamo a tirarlo fuori, però quelli di giù magari hanno qualche problemino, soprattutto quando c'è QRM. Io adesso l'ho ascoltato, non benissimo, però riesco a toglierlo fuori. Però io sono un pochino più chiuso dalle parti come voi, voi siete molto più aperti. Comunque, com'è questa lunga assenza, ragazzi? Vabbè, tanti motivi, poco tempo, caldo e molte volte ero impegnato. impegnato a fare altre cose varie più importanti. Anche a te sono da molto che non ti sentivo, Tino, e tu come mai? Vabbè, io ero in giro, quindi quando ero in giro c'avevo acceso ma non sentivo nessuno, quindi non niente. Poi quando ero a riposo era spento. E magari non coincidevano gli orari, e per quello magari ci sono state difficoltà a sentirci. Di nuovo a te, Antonio, ormai. Sì, sì, Antonio, giusto. Cappa, io mi facendo sempre roba. Per quello anche io sono stato un po' assente. Ma che entravo però, c'ero anche ieri, c'ero. Avanti ieri, già entravo. Avanti a te, Mirto. Scusa, dove sono in bassa? Ehi, ok, vai Mirto. Sì, Mirto, ben sentito, anche se per poco. Comunque, sempre piacere ascoltarti. Speriamo meglio per il segnale, la radio discreta. Comunque va bene, dai, avanti Antonio. Capo, no, io lo sento un po' bassino, però già lo tiro fuori lo stesso. Lo so, purtroppo c'è un baracchino con il microfono da palmo, ma se si mette un microfono preamplificato va molto meglio. Il segnale qua è 9, la radio 5 però non è forte come la vostra. Capa, se mette qualcosa di meglio arriva tranquillo anche qua, senza problemi. Sì, sicuramente migliora tanto. E mettersi l'antenna col palo telescopico più alta, così riesce ad arrivare molto meglio. Ok, facciamo un bianco un attimino per vedere un secondo di bianco se c'è qualcuno sotto che vuole entrare. Avanti sul canale 10, nulla, non c'è nessuno. Ma infatti stavo chiamando, tanto ti ho chiamato 10 volte, ho detto ma è possibile che non mi intendi? O tu eri la M, come eri? Ascolta, io non mi ricordo dove è il coso di questa radio. Quindi è un casino, capito? Non mi ricordo come devo fare per andare in USB. Tu vai su VFO/M, l'hai visto la radio davanti, cioè c'è scritto VFO/M. Ecco qua. Dice AFRF. Allora tu schiacci quel tasto VFOM e ci diventa in sintonia continua, dopodiché ti scegli USB, LSB, FM o AM, mentre quando lo rischiacci ritorni canalizzato. Sì, quello sì, ma non so come tarare il caliper. Il caliper lo cerchi col coso, col VFO, piano piano ti muovi, ma se l'apparecchio è centrato come dovrebbe essere, vai a 27.075 ed è perfetto, sei centrato. Se poi c'è una leggerissima differenza, ti sposti poco a poco con il monopolone. Oh, scusate, che devo montare la radio e controllare il pH alla pozzanghera. Dai, ci sentiamo più tardi nel caso se coincide. Ok, ciao Roberto, ci sentiamo. Ciao Antonio, ciao gli eventuali amici, che adesso al momento non ho pensato per altre cose. Ciao, alle prossime, ciao, buon tutto. Vai Anto. Cappa, ciao, ti ci sentiamo. Cappa. Allora, il VFMM togli dalle memorie, ed è giusto, vabbè. Però io vado nel coso 27.075, che ce l'ho già memorizzato. Poi da lì ci sarebbe un caliper, solo che io non lo so. Capito? Perché non ci vado mai. Allora, tu adesso ce l'hai memorizzato, il manopolone, senti i canali, fa 1, 2, 3, 4, 5, se ce l'hai memorizzati, si sposta come un canalizzato. Per entrare in sintonia continua, schiaccia VFO/M e tu giri la parola, poi si sposta la frequenza. Per cui se a 27.075.00, tocchi poco e te ne vai io su e giù e centri da lì. Ah, il manopolone stai dicendo? Certo. Sai che l'avevo sospettato? Non ho capito. Che l'avevo sospettato che era così. Dopodiché, quando sei entrato VFO/M, che c'hai in sintonia continua, ti scegli il tipo di modulazione, se la vuoi in banda laterale, LSB bassa, USB in banda laterale alta, e poi c'è AM, FM, ti scegli quello che vuoi. Scappa, e col manopolone bisogna spostarli appena la cosa. E vorrei provare a vedere se funziona questa cosa. Prova a farlo, schiaccia VFO e mettiti a 27.075 e poi vai prima in AM e poi andiamo in banda laterale. Ecco qua, ci sono già. Hola, 1, 2, 3. rimetti il microfono come la... Non va bene. Processo che è inserito? Sì, è inserito. Un po' di microfono ci vuole, no? Va bene così. No, no, già ti ascolto. A quanto ce l'hai il coso? Alla C ce l'hai? Che cazzo vai a fare? Ho scusato la cosa. Ora, adesso va bene. Sì, in che posizione ce l'hai il microfono, l'indicatore del microfono? Appena proprio. E in che punto? No, è in punto giù, dai. Non lo posso alzare tanto perché se no strappa, perché tira da c'è il radio. Come prima, metto, nella posizione che avevi prima? Sì, all'incirca sì. Allora lasciamo fare così, già va bene. Tu bene mi senti? Sì, sì, benissimo. Non ho capito questa storia della SSB, comunque. Vabbè, bisogna fare delle prove, con calma. Dimmi una cosa, tu c'hai l'altoparlante esterno tu per quella radio? Mai avuto l'altoparlante esterno. Ma perché non c'è spazio o che cosa? Perché non ho spazio. Niente, che me lo compro la cosa. Perché quando c'è l'altoparlante esterno inizia a sentire molto meglio anche segnali deboli, tutto quanto, meno disturbo. Perché con l'altoparlante di dotazione senti molti medi e molti acuti, per cui il fruscio predomina il disturbo. Metterò bongo, robè, che non ho spazio. No, sto solo dicendo, se uno ha la possibilità, cioè se uno di quegli altoparlantini piccoli, anche con le carte piccoline di computer, quelle anche a quattro ohm vanno bene, l'attacchi dietro, c'è il mini jack e sei andato. Io pure ai davi, ma la volevano dare, ma dite ne metterà bongo, in culo. No, vabbè, se non c'hai fatto lasciare stare quello. Io già, grazie a Dio, già ce l'ho spazio. Beato te. Questo facendo. Sto cercando una casa più grande perché devo metterci anche roba, cavolo. Metto gasino, Ma tu non sei su due piani, non metto che sei su due piani. Già lo so, ma la casa non è grande. Vabbè. Vabbè, se c'è problema di spazio ci sono cose più importanti della radio. Vediamo se c'è qualcuno qua sul canale 10 che vuole entrare, se no riprendi tu ancora. Avanti che vuole entrare. C'è il QRM a 7 luci, più o meno alto. Lo so. A me mi piacerebbe avere più posto perché, come si dice, a me piace anche cantare, mi piace. Già l'ho visto, dimmi una cosa, ma tu che alimentatore lo stai alimentando con quella parete? È lo switching. Grosso, Molto grosso. Ma è lontano dalla radio, in terra l'hai messo? Sì, siete il ventilatore adesso. No, non me ne sono accorto, non ci ho fatto caso, però già esci bene, non ci sono problemi. No, dico, tienitelo sempre molto lontano dalla radio, così non c'è rientro, non c'è niente. Sotto era l'alimentatore, non ne tengo mai vicino alla radio. Anzi, nella stazione a me manco mi piacciono gli alimentatori, ti puoi immaginare. Sì, sempre meglio così, anche io ce l'ho molto lontani, con i due grossi, uno grosso grosso e un altro meno grosso, però sono totalmente lontani, saranno un metro e mezzo dal corso, più c'è tutta la messa a terra, c'è una piastra in ferro zingata con tutte le masse a terra, tutti gli appareti sono collegati a terra. Capa, guarda, vabbè, io sono lontano dal microfono. Meno è vero l'alimentatore, meglio è, meno vento faccio in mezzo alle balle, è meglio è, perché proprio non li soffro. Proprio l'alimentatore non mi interessa, la radio sì, ma l'alimentatore non ne voglio manco vedere. Ti laggiù un ci sotto un mobile, boh. Però fai in modo che raffreddi, no? Cioè che l'aria che tirano fuori non se la riportino dentro, perché sennò sei sempre attaccata al vento. No, quelle stanno sempre attaccate. No, raffredda sempre quello. Era vuol dire che gli hanno tirato il collo, per avere più ampelle lo stanno tirando il collo. No, io quello grosso, quello grande, quello non è a ventole, quello però cattiva una bestia, ha preso più di 20 kg. Se ti ricordi a capo che ti faccia un gabbo, ripeti? Già non so, no, a me è switching, però non lo voglio in mezzo alle scatole, io me lo disanimo. alimentatori fuori, fanno troppi rientri, non va bene. Sì, poi con microfoni, non sono amplificati e peggio che mai. Capo, allora non state di tutto che ci faccia il ventilatore, ma cosa fa giù gaggio? Non penso che ci senta. Ah, non lo sai, tu lo senti il mio ventilatore in questa stanza, siccome c'è un bel di caldo, c'è uno di quelli rinfrescatori, quelli che si mette l'acqua dentro, grosso. Quello sì che fa rumore, non so se lo senti. No, no, negativo. Perché qua quello fa un bel di rumore, tutto la vento, un'azidia, però senza di quello si crepa dal caldo. Infatti nell'altra stanza c'ho l'aria condizionata, qua c'ho questo, un po' migliora, ti ricambia un po' l'aria, ti faccio fare un po' di aria, almeno qualche grado lo senti di meno, dai. No, no, io che me lo cernaglio, invece un ventilatore attaccato. Allora cosa gli ho fatto a questo ventilatore? Era mezzo ingreppato. L'ingranaggio non girava, manca balla. Ho comprato, non so se lo conosci, Svitol Sport. Ho comprato. Laggiù un po' sciughissimo nell'ingranaggio, già sciolto dalla D, non c'è più bloccato. Mario è rimasto un po' di tempo fermo, si è ossidato e cosa, una volta che parte poi le cose funzionano bene, possono stare a ore e ore, giorni e giorni attaccati. Non so, ma quello gli ha fatto, la mano di Dio gli ha fatto quello lì. È a base di grasso, Si può dare anche a mulinelli quel tipo di CRC lì. Non so se l'hai visto. Cioè sono bene tutti questi CRC, però più o meno già vanno bene tutti, da. Qual è Svitol? Non è CRC, è Svitol proprio. Si chiama Svitol Sport, si chiama. Che puoi dare sia a mulinelli, la catena delle bici, a tutte queste che hanno. Devono avere una lunga lubrificazione. Come gli ho messo quello si è sciolto, cioè. Meglio così, dimmi un po', ma tutti gli altri, quelli che entravano prima. Gianfranco non l'ho più sentito da un bel. Marco idem, che fine hanno fatto? Più sentiti adesso? Ieri sera Gianfranco, ho sentito anche a Claudio. Claudio vabbè, già viene ogni tanto in officina, già lo vedo. Però anche lui qua in radio di sfuggita l'altro giorno lo sento. Ma Gianfranco, minimo 15 giorni che non lo sento. È entrato, ieri sera ha chiesto un controllo a Claudio, che io ero giù che stavo cucinando. Ehi, magari Claudio già tiene sempre acceso, magari ti sta ascoltando facendo gli orecchini in porto, come diceva un amico qua in frequenza. Claudio, se ci sei batti un poco, se no te ne butto in terra l'antenna, che ando da ciò. Oh vabbè, magari sta anche mangiando. Ok, va bene, dai, un attimino ancora di bianco, se entra qualcuno, se no riprendi su. Due secondini, avanti su 10, nulla. Ok, riprendi tanto. Capa, roba mi sono pigliato altre due casse mi. E come ti va? Volevo due più potenti. Amplificate sempre. Capa. È per far cosa, ma mica le tieni in casa, pure. Accesi in casa l'altro giorno. Prima va tutto, ma li accese lo stesso. Ma c'è anche il mixer appresso, solo devo utilizzare la carta per gli ingressi? No, mixer tutto c'ho io, scherzando. Che carta ti sei preso? Stress si chiama. Sono da 500 luna. Non ho capito il nome, ripeti? Stress, a che cosa è il genere? È qualcosa, ma è giallo, c'hanno una scritta in giallo per caso. Scritta verde. No, non me lo ricordo. Vabbè, ormai ce ne di tutti i tipi di più, adesso poi ci sono questi amplificatori in classe D, cacchio, che pesano mezzo chilo e ti tirano fuori 200-300 watt, poi se li prendi ancora più grossi guai, 1000 watt, prima per avere potenza del genere ci volevano 40 kg di amplificatori. Già, su altri tempi erano, e io vorrei pure un contatore, mi vorrei. Io oggi è venuto in un'officina un tipo che abita qua dietro, ma lo conosco una vita, Gianni si chiama, un tipo, vabbè, c'ha una malattia, non si può dire, dai. Però già mi ha capito, se lo conosci, lui faceva service una vita. Ah, Giannica. Certo che lo conosco. Certo che lo conosco anche bene. Ha lavorato con tanti, ha lavorato pure con gente nuova. Molto. È stato anche il manager di Giuseppe Masio un periodo. E ha fatto un po' di tutto, è un bravo ragazzo, pur avendo qualche problema importante. Già lo so, anzi, Guarda che per l'età che ha si sta tenendo bene. Dall'altro perché quelli dopo una certa età è pericoloso. Io lo ammiro, lo ammiro perché veramente, cioè, li voglio bene, cavolo, perché veramente si sta tenendo bene, si sta tenendo, l'ammiro. E poi non si ha mai creato problemi di niente, nel senso ci sono quelli che non hanno quei problemi lì, si richiudono in casa, non è, sono invece tu lo vedi, io lo conosco da quando ero ragazzo, lo vedevo sempre, sempre dandosi da fare, nelle console, nei servizi, luci, dava a fare, sistemare palchi. E tu l'ha fatto, ne ha fatto poco i travagli. Ora, cioè io lo ammiro quella, quella persona lì. E io ci metto che adesso è entrato in cassa integrazione, c'era appena assunto lavoro in questa affare, in queste sale, sala slot, eccetera, eccetera, non ti dico dove, però ho dato le immagini, dice manco è entrato, perché non voleva andare nessuno, è riuscito a entrare, gli hanno fatto il contratto, poi ne ho buttato il gufo, dice tu l'ho fatto tutto. Lo so già, ha lavorato tanto, qualche anno pure con Babbo ho lavorato. Ma anche a cosa? Conosci Gianni Buglione, lo conosci? No, io a lui no, però già conosce bene Babbo. Quello era una vita, tecnico delle luci, ma molto apprezzato, era già battuto il mondo quello lì. Poi alla fine ho detto basta, cacchio, c'ho famiglia, non posso stare così, perché quel lavoro lì non hai orario. Poi c'è un amico carissimo, un inquilino di mio padre, Antonello, lo stesso che lui, però lavora col gruppo di cose, con la gente lì, dice, se ne stanno facendo al mazzo adesso, ho detto, ma lavora, lì sta lavorando, di più di prima. È meglio Gucci che facciamo travaglio. Dai che sa niente già. Purtroppo bisogna lavorare, se vuoi ridinare, se vuoi mangiare, bisogna travagliare. Poi mi ha detto, adesso c'è il coso Sassarese, l'estate Sassarese, che ci sono le commedie, concerti, il coso, Teatro Verdi, poi c'è quello in quella piazza vicino, più in giù di Vigile del Fuoco, Piazza Moretti, che lì ogni tanto fanno spettacoli. Hai visto? Lo sai quella Piazza Moretti? Già lo so, quindi è Viale Dante, da Reto. A me di lì, ma io robe, riconosco tutti. Già lo so, ti ho fatto la battuta, se no riconosci tu che riconoscimi, più di te lo sai che riconosce le carriere. Lo so che riconosco, io proprio riconosco tutti, io so con tutto di tutti, gioco. Cioè, io robe, cioè, a noi... Qualche volta che gli manca l'operaio, a me mi basta nel burro il lavoro degli altri. Quindi io conosco sia i clienti miei, conosco sia i clienti degli altri, conosco tutti, capito? Sì, ma adesso lo sai chi ne conosce più di te di strade, che a Sassari è il numero uno, io sono il signor Gavino lo conosce. Tu quello non adesso è diverso, ma quando ero ragazzino io, tu gli chiedevi via, non so, via Pasquale Paolo, e lui diceva via Pasquale Paolo, li parte da via Zaffarino, giri qua, fai là, sabbia tutti lì, poi dopo di quello c'è qua, di tutto Sassari sapeva, guarda, adesso di meno, ma prima siccome lui andava in giro a riscuotere i soldi, sapeva tutte le angoli delle vie di coso di Sassari. Vabbè, pure lui ha avuto la sua epoca, ha avuto. Io li conosco tutti, conosco tutti i ristoranti di Sassari, conosco tutti, tu mi dici, io dico, non ci sono già stato, perché te l'ho detto, a me qualche volta, che ma qualcuno manca l'operaio, li vemo noi, li vemo, dici, certe bombole le faccio io, le faccio, capito? Non per tutti i rivenditori di Sassari, però... Certe cose le faccio io, quindi li conosco tutti. Eia. Poi, ma anche Cesare Storico bene è conosciuto. Non è grande, però, cacchio, a conoscere tutte le vie non sono molti. Capa, lo sto imparando adesso che ci abito. Mentre la Terolce conosci tutto il Santa Maria di Pisa? Quasi tutto, perché ho lavorato più su che giù, capito? Ma tu fai tutto a Sassari o anche oltre? Tutto a Sassari faccio, se mi chiamano in burla a coso vado, se mi chiamano in qualche altro posto ci vado. Le porto anche a Ossi, due alla settimana a Ossi c'è, cioè, sacco. A quelli l'istituto che c'è degli anziani. Addirittura la stanza, perché non vedo un bomboloio a coso, a uso. Siccome tramite conoscenze la madre di quello della Croce Blu, capito? E lavora anche lui da grimigliare bombole. Ho capito. Però poi per dire, voi andate anche a Ottava, lì punti, con le zone lì pure fatte. Se me ne ordinano sì. Ci avete una bella posizione voi, e anche quelli che c'erano giù alle Conce ancora ci sono. Ci sono già. Voi già lavorate parecchio, ho visto. Già quando c'era in via Patronome, in via Patronovembre, in via, si chiama, via Armando Diaz, lavoravate già di lì. E poi adesso, in questa posizione di adesso, meglio che ancora. Come dovremmo, adesso può ci rompere. Che è il grosso a Sassari, quello pala, quello della Terrosa. Lui fa tanti chili, lavora un bel. Vabbè, quello lavora anche la domenica, per quello che magari riesce a fare qualcosa in più. Stiamo studiando qualcosa. Ma dimmi una cosa, ma il principale tuo, il Marò Giù Vecchio, è morto? Sì, già una di. E c'è il figlio adesso? Daniele c'è. Ma c'ha moglie, madre? La moglie è quella che c'ha la frutta e verdura lì in via Lunessola, che ha aperto da poco. L'ex moglie, da. No, volevo dire la madre, si trova ancora? No, è già una di morta. Morto dopo qualche anno, ma è morta. Quindi gestisce tutto lui? Già una di, da quando è morto il babbo, poi non se ne è più occupato nessuno. Ha preso lui e basta. I fratelli non ne ha putti nulla, perché hanno i loro impieghi tutto canto. E chi c'era? Lui. Ma lui ci va a lavorare o lascia fuori? Che non è con me, con Romanzano. Ah, lui è? Pensavo che rimanesse dove c'è tuo padre. Ah, va che volta. E finché non ci sistemo una cosa, poi già esco io. Ragazzi, siete in tutto che lavorate, di tu, tuo padre, questo Daniele, poi? Lui, Daniele, io. E qualche volta c'è Roberto, c'è Franco, ma adesso da parecchio che non. Quindi te ne vado un atto tu, tutto la immobile deve stare. Allora si infanta, vai. Certo, quando inizia a salire al terzo o quarto piano senza ascensore una bomba da 15, per non dire da 20, 25 non vi capita di portarle su. Ehi, lì mancantesimi me già giù fatto. Cacchio, avete te messi gli occhi, certo, sto levando le sue bombe. A me non mi guardi nulla, io ho tirato sopra e buh. Che è avanti? Che è avanti su 10? Ma basso, avanti! 9-10 era qua, un segnale abbastanza forte. Avanti scrivo l'entrata. Robè, io comunque faccio tutto. Fino una volta è già stata 25 a sopra. Io faccio di tutto e di più faccio. No, ma non è per quello, no. Robè, non è per cosa fa lo 50, logicamente sono io l'operaio, quindi devo lavorare io. Cazzo, se no travaglia Edo e ciccia, non è bene, cioè, appaga che appaga. Scusami. Sì, è normale, certo. Quanti anni c'ha, ma è molto più grande di te lui? Sì, lui c'ha 50 anni. E anche lui qualche bomba se l'avrà portata da giovo. Anche una, ma. Però non sei arrivato al punto di Babbo Duglio ancora, tu, no? Io? Ed è una carregata bombole. Sei di tuo padre? Cosa? Da quanti anni sto lavorando tu? Io sto lavorando quasi 20 anni. 20 anni? Anche così tanto? Il tempo passa. Sono andato da ragazzino. Cazzina ci ha regato davvero bombole, no, non è cucino. No, io pensavo se. No, il tempo è passato. No, il tempo è passato. Altro che. E tuo padre quanti anni l'ha fatto il lavoro? Allora, papà è entrato nel 1996 è entrato. Ma dite, io sono entrato qualche anno dopo. Vabbè, quindi già c'ho ragione che è stato prima di te, ne ha preso qualcuno più di te, boh. Vabbè, no. No, perché dopo un po' di anni, sì, una carrata un bel. Dopo un po' di anni poi sono entrato io e pure io. L'ha giù carrato. Sì, sicuramente, ma tu sei anche più giovane, ne aguanti di più lui, cazzo. Tuo padre deve sapere 60 anni, che antenna? 60 anni ce li ha, E appunto, qualche cosa, gli bisogna dargli anche un po' di riposo anche a lui. Il lavoro lì cosa faceva da prima? Non lo so. E noi abbiamo parlato poco fa. Cioè? E travagliava con R. Ah, è stato di lì, no, ma dico, prima di quei lavori cosa faceva, non lo so, altri tipi di lavori, prima del servizio. Un travaglio duro, infatti, Il carrozzero? Ehi, ha travagliato a Solinas. E la macchinuti, sai? Ehi, ha. Ma cos'era, la merita o veniciato? Non me lo ricordo cosa faceva. Mi va un po' tutto a fare. Ma tu li hai conosciuti, i figli di... Ma tu li sai parlare, il signor Gavino o l'altro? Nino, il fratello? Non lo so, non lo so, perché lui li ha conosciuti perché ha lavorato lì. Io non li conosco molto bene, non li conosco. Lui ha lavorato lì, in via Marghinotti, anni fa. No, io sono molto, ma molto amico sia del padre, di tutta la famiglia. E abbiamo fatto l'entrata insieme con i figli, con Marino e Giancarlo. Un altro che non c'aveva mano pesante, mamma mia. E la sorella lo stesso, grazie. Tutti li conoscono con la famiglia. Mi siamo visti anche da poco col padre. Il padre è grandicello. Perché l'officina c'era dell'altro fratello, diciamo, il titolare vero dell'altro fratello. Ma sono morti alcuni. Signor Gabino è ancora vivo, il fratello è morto, lui è ancora vivo, grazie a Dio, sarà Mannumbe. Me ne parlava sempre di quel signor Gabino, signor Giovanni, signor Gabino, si parlava. Sì, lo chiamavano Nino, il fratello, però mi pare si chiamava Giovanni, lui è Gabino, però il vero maestro era lui, questo signor Gabino. Allora babbo ne ha 88, lui sarà un paio di anni più piccolo, ne avrà 86-85, però se li porta abbastanza bene quello. Bravo carrozziere Lattoni, loro di origine erano fabbri, perché con l'ufficio ha iniziato il nonno, il padre, era fabbro. Diceva che aggiustavano i cavalli, cioè le carrozze faziane. Fabbro intendo Mato Ferraio, che faceva le carrozze, i calessi, non fabbro di anche ferro di cancelli, però loro, lavoro loro erano le carrozze. I carretti, aggiustavano le ruote, un'altra generazione fa, fate il conto, questo è del 34-35, per cui il padre è stato fine 800 come lavoro. Così è. E tuo padre ha lavorato di lì, ma da ragazzo o da grandicello? No, da ragazzo. No, già lo conosco molto bene. Adesso i figli sono un po' che non li vedo, soprattutto al grande, a Giancarlo, ma eravamo amici perché abitavano a fianco a me, la porta a fianco a me, e poi ci conoscevamo e uscivamo insieme sempre, tante le cose. Padre è una brava persona, niente da dire. Ok, vediamo un attimino di bianco ancora, vediamo se c'è qualcuno. Avanti, chi vuole entrare? Cari ragazzi, tu di prima, tu che è entrato, però non ha parlato. Boh, non lo so. Poi dice che ha lavorato da un certo Pinna. Non ho capito. Dice che ha lavorato da un certo Pinna. Chi? Tuo padre? Eia. Sempre carrozziere. Dice che forse era lì in via Principe di Piemonte, è possibile. Come Pinna? Vabbè, c'erano carrozzieri di Pinna, però sto cercando di ricordare. Via Principe di Piemonte c'era carrozzieri, non me ne ha messo. L'ho mai detto così, non lo so. No, ma tu sei figlio unico, tanto? No, c'è una sorella. Più piccola o più grande? Una sorella più piccola di me. Sì, no, sono sopporto a te e a tuo padre, gli altri non hanno niente da dire. Ma la carradio non la sei più trattendo, tanto? Sì. Falla andare ogni tanto, mi alterna, Scappa, ogni tanto già l'accendo, già acceso anche la bestia ieri. Sì, cosa? La stufa? Ha troppo un gaccio, purtroppo la devo accendere perché sennò si guasta, sennò. Sì, ma d'estate non è che va tanto bene, cazzo. Ma quella lì c'è la ventola incorporata? No, ma un gaccio incorporato. Ma com'è, a valvole o a transito? Valvole, valvole. Quindi ventola non ne dovrebbe avere. Nine. Però rugalore lo dirà pure, non attesti. La mazza che ne è varia, non sono rughissimo. Quante valvole c'ha? Un paio. Le valvole non ce n'è, se devi usare alta frequenza ci vogliono solo le valvole, ma che non c'è il piccolo e potente, ma in alta frequenza anche le stazioni, tutte le stazioni bloccate, in quelli trasmettitori grossi, sono tutti a valvola, transistor, fino a qualche migliaio di watt riesce ad arrivare, poi solo valvole. Ma guarda, la verità ti dico, io li ho provati tutti e due, ma questo è un altro pianeta. Che marca è? ZG. No, vabbè, sulle valvole già fanno cose discrete. Su transistor qualche cagatina l'hanno fatta perché le tirano troppo il collo e danno un sacco di disturbi. Capa, no, però guarda, non venne, robe, lascia perdere, no. Io ne ho provato di altri amplificatori, ma non... c'è un qualcosa di diverso. Sì, a parte la modulazione, non ti mangia niente. Poi, se tu non lo sovraccarichi tirandolo il collo con l'ingresso, perché un po' di gente per avere qualche watt in più, vedete, dice massimo 10 watt e ne hanno 12, 13, 15, così le crepi le valvole, perché poi le consumi subito. Invece, se c'è scritto 10, tagliene 6, 7, vedi che ti durano un'eternità. Lo so, però è un altro pianeta, la verità è, ti dicono, non ce n'è, ma le vendono sempre alla fin fine. Non ho capito. Le valvole le vendono sempre. Già lo so come vendono, ma se le vanno in magazzino. La mazza che ne varia. Già lo so, Fusaro già le tiene, poi su internet, cosa c'ha le 509, quello lì, cosa monta, è le 509. Non so, no. Non so che modificato. Cappa, so coloro che cani calli. No, io sinceramente preferisco investire sull'antenna, perché se c'è una buona antenna, a parità di coso, altro che amplificatore, certo, se poi li metti qualche watt all'antenna è ancora meglio, però se c'è un'antennina che non rende, dei buoni un kilowatt, è meglio avere un'antenna che rende tanto con 100 watt. Ma io la penso un po' diversamente. L'antenna, diciamo, deve rendere, ma deve rendere anche, quando vuoi, deve rendere anche la potenza, se no tanto vale. C'è un'antenna buona e c'hai, e hai potenza. Uiuia. Meglio ancora, però se tu c'hai un'antenna scadente, vai potenza, non vai da nessuna parte, però se c'hai un'antenna buona, un'antenna cattiva e c'hai potenza, non vai da nessuna parte, però se c'hai un'antenna buona e poca potenza, vai molto di più di quello che c'ha potenza e un'antenna scadente. Lo so già, io non penso di avere un'antenna scadente, grazie a Dio sento tutti, pur se mi hanno detto che tutti i colori, però io è sempre lì, stazionario 1 e 1 e pompa a voce. Ma c'hai prima dell'apparato diretto all'antenna o c'è accordatore? No, solo rosmetro senza accordatore. Tira solo le stazionarie, vabbè, che con l'apparecchio ce l'ha il coso, l'indicatore delle onde stazionarie, non c'è la computazione a memoria. Sì, anche l'accordatore, ma non ne ho stazionarie, quindi onde l'attacco l'accordatore. Ah, perché lo sta mettendo in rosmetro, se non è? Perché è sotto controllo. Ah, va solo per quello, dai. Perché se l'antenna va bene, ma anche non hai avuto problemi di cavo, se non hai troncato l'antenna, non c'è bisogno. Ah, scherzando, Robby. Aspetta un attimo, sa, per fare una cosa, una fotografia. Guarda, io ti posso vedere una cosa. Guarda, sto parlando adesso, mando la foto. Ecco. Aspetta, non mi è arrivata ancora. E beh, stazionario perciò, secondo te. Aspetta, che mi è arrivata la foto, aspetta, è zero, ce l'è, poco più di uno, quasi di uno, ma fino a 1,5 sono tollerabili, il problema è quando superi 1,5 bisogna stare attenti, soprattutto se c'è potenza. Scappa! E ho che posso pure bombare, non succede nulla. Perché nel stazionale non ce n'è. In che scala sei tu dei wattmetro? In scala... aspetta... 100. Scala 100. Quindi sta vincendo con una quindicina di watt di coso, non modulati. Modulati magari arrivi qualcosa di più. Cappa! E no, sento già. Sì, ma è così, Aspetta un attimo che sto portando l'acqua a Sara. E io. Sì, avanti, devo entrare. Eccomi. Intanto si sente questa portante, con un rumore sotto. Ah, non ti sono nessuno. Oh. Non lo so. Ora, ora. Scappa. È aggiunto, è così, non ne ho zio stazionario. Non ho mai avuto problemi stazionari. Quando piove appena di più, ma appena berommi. No, anche io portando con l'antenna montata nel 2005 con l'antenna davanti, grazie a Dio, sempre basso, vabbè, è stato fatto un lavoro regolato, un cavo buono, tutto, i connettori di alta qualità, sigillati, eccetera, non è usato cagate e poi devi smontarne tutto, rifare, ho fatto un lavoro definitivo. Adesso, come dice il bel tempo, ne devo piantare un'altra, le antenne, e lì vediamo di fare schicchiare i nidi degli uccellini. Io ci ho messo l'H155, ho messo i PL, li ho messi, e grazie a Dio sempre andendo. Vabbè che tu c'hai una tratta breve rispetto a me, io c'ho una tratta a cazzo un bel lunga. Dago, 6 metri in capo, penso. No, io nell'antenna grande, io penso ci siano non meno di 30 metri di cavo. Ma no, io non perdo niente, tutta un'antenna sto dando. Però, se non per vantarmi, c'è un'ottima ricezione e trasmissione, cioè mi do da fare, dai, non sono molti che hanno una ricezione come la mia, cioè il QRM è molto alto, quello è vero, però prendo molte stazioni che qualcuno ha difficoltà di tirarle fuori, qua c'è una bella posizione e ti posso dire, non ce ne sono molti, dai, che tirano fuori i segnali come le tiro io. Cappa, no, io... i segnali bassi si sentono, non ho problemi. Hai visto il QRM che ho? No, no, proprio io non ho problemi di niente. Sento un po' tutti, sento, dai. Sì, certo, c'ho qualche cosa negativa, però no. Non ho tanti problemi io. Sì, funziona dove sei, esci alla grande. È impensabile, cioè molta gente che è in posizione molto meglio della tua, teoricamente parliamo. E poi tu prendi delle persone e ti fai sentire meglio di altre persone che sono in zone che sembrerebbero migliori. Con antenne che dovrebbero essere meglio della mia pure. È certo che è tutto. Adesso mi è arrivato un messaggio, scusa un attimo lui. Luca, Antonio. Eia. Avanti. Ora. Avanti. E un attimo tu. Un attimino che sto accordando, Era un po' di tempo fermo. Ma hai cambiato radio da okay. Prima, sì. Sì, ho cambiato radio, aspetta un attimino, sono in disaccordo. Va benissimo a te. Ma non ti arriva a te, Antu, a Mommoletta ti arriva. Più forte tu, sempre. Non ho capito, no. Che tu mi arrivi molto di più. Addirittura. La posizione è diversa, Robè. Sì, vabbè, io sono periferia uscita la veloce, ma molto inoltrato in campagna, basso. Ma io pensavo fosse nella Budi, quelle case, diciamo, sulla strada, dai, non esattamente, non saprei dove, però pensavo vicino alla strada Budi, dietro le luci gialle, dai, più avanti delle luci gialle. No, io sono uscita la veloce verso Platanona, capito, quindi fare rotatorie, scendi giù, capito, e poi in una campagna inoltrata molto basso. Vabbè. Vediamo, attirino se è migliorato. Guarda, sta cambiando, Roberto. Qua sei 9 più 20, è un segnalone, cioè se sei con la zona lì sta arrivando la bomba. Era un po' fermo. La radio, ha cambiato un pochino, però. Similare. La radio, se voglio essere pignole, la sento un pochettino leggermente satura. Chiara, comprensibile, però leggermente satura. Già può essere. Già può essere, perché vabbè, siamo sui 600, quindi. Guarda, adesso non so se è migliorato un pochino. Sì, sì, ha migliorato tantissimo adesso. Devi trovare il giusto accordo. Sì, sta scaldando, appena acceso. Era qualche mezzo fermo. E io quanto ti arrivo per curiosità dalle tue parti fino? 9.10, 9.10 però con questa radio, se vuoi un segnale più, più stabile, più sincero, devo segnare un'altra. Scusa, cosa hai detto? A me ha detto, mi ha distratto mia figlia un attimino, cosa hai detto? No, ti ho detto, vabbè, 9.5 comunque. Ah, sì, quindi arrivo 9.5, dai. Considerando, Antonio, quanto ti arriva? Allora, capa, non lo so, quanto ti arrivo io? Allora, Antonio è un po' più forte di te, 9.10, con picchi 9.15 quasi. E a te preso questa radio non dà più di 25. Guarda questa qua, con questa è più debole, ma la modulazione migliore, però come segnale questa è insomma un po' più bassa. Vedi un po' Roberto. Vabbè, però è fatto così. Io magari arrivo più forte a te, perché qua sei 9.20, sei. Capito? Oti. Qua tu sei 9.20. Cosa? Roberto è quasi 9.40. Qua, perché la posizione è diversa. Io prendo verso su, prendo molto. Verso giù un po' di meno. Capito? E magari a te, Roberto, ti arriva un po' di meno perché c'è molta più distanza, ma è normale che sia così. Sì, sì, vabbè, con questa quanto? Così faccio la proporzione del... Quasi 9 più 20, ho cambiato radio adesso, non so se si è cambiato anche il segnale, questo qualche cosina in più piccolina dovrebbe darla, almeno di radio dovrebbe spingere un po' di più. Sì, quasi 9.20, mentre di radio 9.20 e con i picchi superarli. Ho capito, sì, si è salito un pochino sui 9.10, con qualche picco a volte a 9.15, a volte, non sempre. Questa è 44, l'altra è una radio un pochettino più piccolina, non ti dà più di 25 watt. Questa forse spinge un po' più di radio, probabilmente, mi confermi Tino? Questo è un abisso, confronto all'altro e si riconosce alla grande. Ok, vai Antonio, a te cambia qualcosa Antonio dalle tue parti, vabbè siamo abbastanza vicine. No, è già... c'è 9.40 qua quasi. No, la radio è molto più forte. È così io in teoria dovrei essere più vicino a Tino, però per qualche circostanza, non, forse perché zona bassa, non so. Però tu mi arrivi molto più forte perché in linea d'aria ti prendo, capito? Oh, scusate ragazzi, devo andare a mangiare, vi saluto. Sono andato giusto così per provare se è andato ancora. Adesso è sollevato ancora Tino, sei quasi 9.25. Tanto hai i suoi pro e poi i suoi abitanti. Mi hai sentito, ti ho detto sei quasi 9.25 adesso. Mentre invece con questa qua è 9.20, così è. Un po' meno di 9.20, con i picchi ci arrivi quasi. Sì. Ma mi sta dando un problemino il microfono, a volte rimane incantato. Va bene, niente, ne approfitto, vado a mangiare. Ci sentiamo più tardi, se coincide sono ritenetevi salutati. Alle prossime accendete più spesso, dai. Ciao. Accendo io più spesso, ciao, domani. Ciao caro, sempre che tendi. Ciao Claudio, ciao. Ciao, ti l'ho sentito molto troppo. Claudio, leggi il messaggio un attimino, cacca la rilegge. Beh, si è arrivato, non lo so. Comunque, ciao, buonasera a tutti. Beh, no, di no, ciò penso io, come sai, come si stava dalle parti campagnole, no? Praticamente non mi hanno fatto più nulla. Ciao, buona serata, buon tutto e buon divertimento a casa. Dimmi Roberto cosa stavi dicendo. Leggi il messaggio e mi dai una risposta. Ecco, il messaggio ti dà una risposta. E se si è arrivato il messaggio, non lo so. Devo vedere, adesso guardiamo se si è arrivato. Perché non sempre arrivano i messaggi qua a queste parti. Ciao Antonio, buonasera. Vabbè, fate il sotto, quando è trancato, cosa hai combinato avanti? Io non ci combinato nulla, niente di che, io sono a 20 watt e 40 modulati, Mickey Game a 2, processore inserito. 9 più 35, cacchio, fuori reso, no? Ah, proprio niente, vabbè, ho simulato l'antenna nuova, mi chiama B. lì, bella, bella, bella, veramente l'assemblata, e 8 metri. Adesso devo preparare, devo togliere la mantova e poi monto quella lì e vediamo un po' rispettato le misure, le distanze, c'è il baluma da 1-1. Sicuramente per affollarla, perché una, stavo leggendo le caratteristiche, mi sembra che ha 470 ohm, per cui l'avevano accordare per portarla a 50 ohm, c'è per forza il baluma. Non c'è nessuno a Sassari, tranquillo. Ma a Sassari forse neanche in provincia di Sassari. Quando l'ho montata ti faccio le foto. Ti ricordo che è una 7 ottavi, non una 5 ottavi, una 7 ottavi con quasi 9 di guadagno ed è alta 8 metri. 8 metri e 50 per la truffa. 8 metri e 50 per la truffa, ce l'abbiamo vista assieme a Roberto, perché prima di dire si manda me l'abbiamo visto qualcosa, ma è una bestia. Una J-Ball verticale per la 27, che non c'era nessuno, la sto sperimentando io, e poi devo dare le referenze a chi me l'ha venduta, alla azienda che me l'ha venduta, la Smartec. Ciao Lugariello. Sì, mi muovo e andiamo. Yes. E beh, Claudio. Ehi, qua siamo, però ci sono già troppo. Sono andato a salutare Sittatino, a Antonio, che mi state ascoltando, quindi i problemi non ce ne sono, poi vedremo i risultati con l'altra antenna. Beh, vabbè, adesso mi guardo il messaggio e poi ti rispondo, semmai esco fuori perché dentro non prende. Ci sentiamo, ciao a tutti, buonanotte, alle prossime linee. Ciao, vai Antonio. Capomonte Claudio. Ciao, ci sentiamo alle prossime linee, ciao. Avanti tu. Ciao Claudio, buonanotte, alla prossima. Ciao Claudio, buonanotte, dai, ci sentiamo. Adesso un paio di minuti anche io spacco e vediamo. Antonio, sta passando Claudio, va di segnale. Normale, è salito da 9.30 a 9.35, adesso sta andando via la sua antenna, è una cosa enorme amico, l'antenna che c'ha. E quando arrivo io lì da te? 9.30 con i picchi, ma Claudio arriva a 9.35 senza picchi. Vabbè, è che c'ho quel staccato, t'attacco. Si attacchi, attaccami. Mica hai perso lo scettro, mi aveva dove cosa lo so pure io, Claudio. Te l'ho lasciato, però siamo attenti che anche se non abito più nella torre di controllo, abito nella piana della torre di controllo, però. Allora se vi un altro di prima, a parte gli scherzi, secondo me spari di più da lì. Posso parlare di io, c'erano dei questioni che non mi interessavano e sono passato nei canali alti. Nel canale 48 c'era Oristano, mi arriva Santiago 9, a Carbonati mi arrivava Santiago 7, ma così ho schiacciato una e aspetto chi è, come chi è, ma vuoi andare la Sassari. Lo so, lì sei un buon lo so. Ok, bene, signori della Corte di Palmadula, io interrompo le trasmissioni e vado a fare altro. Ci sentiamo, dammi una risposta, che devo dare un'altra risposta a Claudio. Va bene? Ciao a tutti, ciao Claudio, Luca, Antonio e tutti gli eventuali amici del Canale 10. Ciao, cuore ti da parte mia. Ciao Robè, ciao anche Antonio, ciao Luca, ciao a tutti, anche io più lo che... Ciao a fare, ciao. Buonanotte, Claudio. E lo posso barredigna tanto, meno, e va. Chissà che cosa, posso solo barredì. Ciao, buonanotte. Ciao, non ti conoscessi, lascia perdere. Comunque sei una bombetta, diciamo che dall'inizio, da quando sei entrato oggi, te ne metti in tasca un bel, per avere quella posizione, quell'antenna, te ne metti in tasca un bel, qua sei 9 più 20, ok, hai lo stesso segnale che arrivavi a Carbonati liscio, quando attacchi sei 9.30, quindi come arrivi a Roberto arrivi a me, perciò non pensare che sia cambiato qualcosa, io purtroppo non sono più in città, e quindi il segnale rispetto ad altri è cambiato, ma non mi posso lamentare perché arrivo da tutte le parti, quindi non me ne affronti nulla, ok? A domani signori, ciao, un abbraccio a tutti. Ciao, ci sentiamo. Luca, avanti Luca! Luca! Luca, rispondi! Vabbè! Cristian, andici! In giro a Sassari! Cappa, sempre in giro Giga! Io sempre in giro, perché? Io lì a casa, ci sto solo la mattina dopo lavoro e basta! Andava, stai innescando, fai. Stai innescando, come no? Ehi, Arturo, io un attimino stavo cambiando l'acqua agli olive. Chi è l'altro che sta fischiando? Cristian! Sta flusci, sì, Cristian. Ma lo sai che la cosa magnifica è una puttana, è la fritta. Gaffa, gaffa. Ui, ui, ui. E care ghiccio. Ciao, buio. Gaffa, gaffa. Ah, io vi saluto. Ah, a proposito, Luca, lo sai che sabato, vero quasi? A cosa? Ah, acco di 4 giappa 1. Ora alla fine abbiamo sistemato la cosa. Ma lì c'è come sempre di zani, capito? Ma... Cappa, cavolo, aggiunta di buoni. Cioè, io me ne venni in nero banco, un disoccupato io, cazzo, con la roba dell'amici, cioè, come la burrusare, tutto canto, cioè, se usciti pure a fumare la sigaretta, ci sono forse in chive, cioè, ma sta scherzando, e io entro con le buone, ma, allora mi ha detto che va a Roma a fare della poltrona, ha detto, no, così non devi fare, scusami, cioè, io pagavo, e poi che ero pitti di cazzo, io voglio doio, da lì è partita tutta la cosa. E lì tanto cercano sempre di azzuffarsi, mi chiedi troppo, lasciamo divertire, capito? Ma scusa, un altro lato, cioè, sempre per attaccarci con le persone. La mamma che gli so scusa, se la punta in di... come te, mi si è stato lo zanga a capo, come te mi ha detto, visto, si chiama, forse Angelo Serra, non mi ammento. Come te, mi è stato lo zanga a capo che mi ha detto esci fuori, cioè come te gatti che mi sbatteva fuori, cosa cazzo mi fai tu a me, mi giungava a dori piccite, a batti basso, ha detto, ma ne fai maddo me. Basso, e te lo ripeto te, poi ho tu qui sai ieri. No, ci vuole rispetto, ci vuole. Ragazzi, tu ti dimmi i ricci di cosa? Oh, ma ho buffato. Mica tu, Antonio, della Tirotti non lo conosci, mica ti fa corrugabbo, bello bene. Cioè, io sono anni che sono calmo. Non devi buffonare con me, qualche ora li faccio malamente. E se li parto io li faccio male, con la bulla a capo. Bello fondo. Sì, Antonio, se la ti girare dai taglienti. Ah, sa quella, fregatene. Non so, potete come passare per quattro. Capito? Perché poi magari la cosa piccola, magari ti vuole in mezzo. Ma sappi lì, fregate, io uso per esperienza. Esperienza vissuta. Poi fai questo che io voglio con consiglio poi. Se rimane vaccinato, No, da voi l'ho fatto ragionare un attimino. Ma domanda di scusa e ci siamo visti tre birre. Una a me, una a Ed, una a me. Abbiamo fatto la base. Anche se continuava la goccia, io ti posso male. Allora, ho cercato di farlo ragionare e farli capire che stava sbagliando. Capito? Ehi, va. Ci vuoi fare purtroppo un casino. Vediamo un po', Cristian, dove sei? Sono la voce lunga. C'è quel microfono troppo amplificato, boh. Ho troppo attaccata la bocca. Mi sono ancora la voce lunga, dicendo tutto quanto a casa. Ce l'hai in macchina, sì, la magnetica ti hai messo. Ma sono in macchina io, tranquillamente. Ehi, ma ti hai messo la magnetica? Cappa. Sai cos'è? Che l'hai amplificato in macchina, un casino, che si porta troppi rumori dietro. Ma spiego le finestrini, dai. Bene, mi ascolti a me. Io benissimo, guarda. Radio perfettissima, la bomba. C'è il nuovo fondo scala. Vabbè. Scagliare tu fatti domani. Già perché andava a Luglia, ma il teatro non basta. Luglia, mamma mia, come sto. Cappa, dai. Io chiudo. Mi sono buttato l'acqua, giugana di drummi. Ciao, buonanotte a tutti, ci sentiamo, ciao ciao. Saluta anche Sara, Olu. Ehi, ricambia, ciao a tu. Pure lo Sara mi guardo canale 5, la Italia 1. Ciao anche a te, Cri. ci sentiamo nel prossimo, dai, ciao, ciao a tutti, ciao Cassano, buonanotte, ciao a tutti. Ciao ciao, buonanotte a tutti, dai. Ciao ciao, buonanotte, dai, che mi riposo un po', ciao ciao.